Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, state bene? Io direi proviamo a stare meglio, stiamo insieme, andiamo a sentire i titoli del nostro sommario, ma prima voglio ringraziare Filippa Oreggi, in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti. Dottore, non riesco a dormire. Come scegliere la scarpa da ginnastica? La droga spegne la sessualità, una ricerca lo dimostra. E molti di noi, senza saperlo, hanno qualcosa in comune con Napoleone, Papa Giovanni XXIII, Edison, Pirandello, insomma, la difficoltà a dormire bene. Questo è un disturbo che avvelena la vita e le relazioni di circa 12 milioni di italiani, verrebbe da dire, ma il comune mezzo gaudio, se non fosse che chi di solito passa le notti in bianco, al mattino ha poco da essere allegro, anzi è un tipo davvero irascibile. In ogni caso, se fate parte del gruppo degli insonni, se vivete accanto a qualcuno che ancora sta dibattendosi per trovare la via d'uscita, la soluzione, chiamateci perché noi siamo proprio qui per darvi una mano. Il nostro numero verde a disposizione 800 24 0024, così come gli esperti di oggi, che sono il dottor Lino Nobili, responsabile del Centro di Medicina del Sonno dell'ospedale Niguarda di Milano. Dottor Nobili, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Poi ci spostiamo a Roma, dove c'è il professor Oliviero Bruni, che è responsabile del Centro del Sonno per l'età evolutiva dell'Università di Roma, La Sapienza. Professore, buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno, grazie. Allora, dalle qualifiche dei nostri ospiti avrete sicuramente capito che oggi ci occupiamo di adulti e ci occupiamo anche di bambini, perché, professor Bruni, anche i bambini non dormono, lo sanno bene le mamme, ma non sono solamente i bambini piccoli, talvolta l'insonnia compare anche nell'adolescenza. Esattamente, diciamo che la prevalenza dell'insonnia varia con l'età. Nei primi 3 anni di vita circa il 30% dei bambini soffrono di questo problema degli svegli notturni. In età scolare solitamente il problema si riduce notevolmente, quindi si dorme meglio in età scolare. In adolescenza ricominciano i problemi legati prevalentemente a cattive abitudini di sonno. Gli adolescenti vanno a letto molto più tardi, tendono a dormire molto di meno perché si devono svegliare la mattina per andare a scuola, mentre invece dovrebbero dormire di più perché i movimenti ormonali tipici dell'età necessitano, determinano una maggior esigenza di sonno. Di questo parleremo naturalmente nel corso della trasmissione. Se volete intervenire 800 24 0024, dottor Nobili, 12 milioni di italiani, possibile? Beh sì, è un disturbo molto molto frequente quello dell'insonnia e comunque di un sonno non ristoratore, probabilmente anche forse in aumento negli ultimi anni. Questo potrebbe essere dovuto a stili di vita, ma ci sono probabilmente anche altri fattori. Ci sono persone che hanno una cattiva percezione della qualità del loro sonno, in realtà dormono ma si alzano alla mattina e sono più stanche di quando sono andate a letto. Sì, questo è uno dei disturbi in realtà forse più frequenti e anche più frequenti di quanto si pensi. Lo riscontriamo ad esempio noi in laboratorio, molte persone le registriamo, riferiscono di dormire poco di notte, in realtà vediamo che il tempo totale di sonno è diciamo sufficiente, è la qualità del sonno che è estremamente alterata, infatti non conta soltanto l'aspetto quantitativo, direi che è molto più importante l'aspetto qualitativo. Questi sono pazienti che hanno un sonno estremamente instabile, con frequenti risvegli di pochissimi secondi, e il mattino si svegliano con la percezione di aver dormito poco, addirittura alcuni di non aver assolutamente dormito. È come se una parte del cervello rimanesse sveglia durante il sonno e impedisse a queste persone di avvertire un sonno riposante. La differenza è che in questi soggetti generalmente non è presente una sonnolenza diurna, anzi al contrario c'è un'ipervigilanza e probabilmente è questo il loro disturbo, non riescono, tra virgolette, come possiamo dire, a spegnere l'attività cerebrale durante il sonno. Quindi una prima indicazione che possiamo dare ai nostri amici da casa è: raccontateci al mattino quando vi svegliate come vi sentite e anche nel corso della giornata se vi viene sonno o no. Dottor Nobili, questo potrebbe darle una mano per fornirci qualche consiglio. Altri elementi? Innanzitutto è capire se la persona che riferisce di dormire male o di avere un sonno non riposante ha dei risvegli dovuti a qualche motivo particolare. Sono delle persone che possono svegliarsi più volte la notte perché hanno delle scosse alle gambe, e in questo caso magari il partner o la persona stessa può rendersene conto. In questo caso si entra già in un disturbo specifico del sonno che richiede degli approfondimenti, delle terapie particolari. Quindi anche le cause dei risvegli sono da indagare quando si fa. Quando preoccupazioni, si formicoli, crampi, ma io andrei dal professor Bruni. Professore, le mamme e i papà in ascolto che hanno figli piccoli o adolescenti con problemi di sonno, quali variabili devono sottolinearle per farsi dare una mano da lei? Guardi, il discorso è molto ampio perché anche nei bambini possiamo avere quei sintomi che ha descritto il dottor Nobili, cioè questi problemi di fastidi alle gambe eccetera, che spesso nei bambini piccoli si manifestano con risvegli frequenti o con difficoltà di addormentamento, e nel bambino sono spesso legati ad una carenza di ferro. Sì. Quindi in questo caso semplicemente la somministrazione del ferro potrebbe risolvere un problema che sembra irrisolvibile all'inizio. Molti bambini hanno questi risvegli, la maggior parte delle cause di questa insonnia sono legate a cattive abitudini del sonno. Nel senso che diciamo sempre che l'addormentamento è un comportamento appreso, noi ci abituiamo ad addormentarci in un certo modo e dobbiamo ripeterlo se durante la notte magari ci svegliamo, noi inconsciamente certo. Ci mettiamo nella stessa posizione. Ora, un bambino piccolo che è abituato ad addormentarsi in braccio o toccando i capelli della madre, mamma, deve ripetere la stessa cosa per potersi addormentare. Quindi, è una cosa banale, sembra. No, ma professore, lei ci ha dato due indicazioni. La prima è questa del ferro, che magari molti di noi non sapevano o non hanno così collegato, quindi irascibilità, insonnia, tante volte è una carenza di ferro nei bambini. La seconda è l'importante, è insegnare al bambino fin da quando è piccolo ad addormentarsi, quindi è anche questo fa parte dell'igiene del sonno e le regole dell'igiene del sonno che tante volte abbiamo ripetuto con l'aiuto dei nostri esperti. Quindi ai genitori in ascolto diciamo raccontateci come dorme il vostro bambino o se dorme male, disturbato, ma raccontateci anche come lo addormentate. Il professor Bruni è qui in linea con noi per darci un aiuto. 800 24 0024, parliamo di notti bianche con il nostro numero verde. 349 238 6666 se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. Vi ricordate, venerdì scorso abbiamo parlato di attività sportiva per i nostri bambini e abbiamo trascurato, come mi hanno fatto notare molti dei nostri ascoltatori, un aspetto fondamentale. Bene, portiamo i bambini a fare attività sportiva, ma con quali scarpe? Allora, noi abbiamo richiamato il dottor Antonio Memeo, direttore della struttura dipartimentale di ortopedia pediatrica del Gaetano Pini di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Dottore, ci siamo dimenticati delle scarpe. Scarpe. Sì, ecco. Assolutamente. Quindi, sì. Ecco. Direi che non è il caso di mandarle a fare attività sportiva con le infradito, come avevamo parlato prima dell'estate. No, allora, però bisogna scegliere la scarpa giusta. Noi scegliamo la scarpa dei nostri bambini e poi se abbiamo tempo dedicheremo anche un po' di qualche consiglio per noi, per gli adulti. Quindi, iniziamo dai bambini che fanno ginnastica nella palestra delle scuole. Beh, nella palestra delle scuole fondamentalmente, essendoci quasi sempre all in all un parquet, la scarpa da tennis tradizionale può andare bene. L'importante è che abbia una suola che garantisca una presa sul terreno, cioè? Che non faccia scivolare fondamentalmente. E lo spessore della suola ha la sua rilevanza. Quindi per qualsiasi attività fisica sportiva non bisogna utilizzare le scarpe, non so, ad esempio quelle da bowling che hanno una suola molto sottile, molto morbida, per giocare a basket. Certo. Viceversa, quelle da tennis cambiano a seconda del terreno sul quale si gioca a tennis, perché se il bambino gioca a tennis sulla terra rossa, ormai sempre più rara, si usa un tipo di scarpa, mentre se deve giocare a tennis sul terreno terreno sintetico o sull'erba sintetica, la scarpa deve avere delle altre caratteristiche. Quindi ad ogni sport la sua scarpa idonea, ma anche nei vari sport, a seconda del terreno su quale lo si gioca, la scarpa deve essere modificata. Ma il volevo sapere, la scarpa da ginnastica, quella piatta? Sì. Ecco, che solitamente i bambini portano più per, così, per andare a scuola che per fare sport. Va bene o va male? Soprattutto nei bambini che hanno sempre i problemi di piedi, il piedino piatto, il piedino... Sì, beh, adesso fanno anche le scarpe da tennis, cosiddette scarpe da ginnastica, con una suola modellata, quindi con un po' di sostegno della volta mediale, che va bene, ma ha la sua importanza l'imbottitura della suola, quindi come abbiamo già detto prima, la suola deve essere abbastanza spessa, né troppo sottile né troppo spessa. Alcune ditte fanno addirittura delle imbottiture con l'aria per rendere più agevole l'impatto sul terreno e meno fastidioso, perché sennò poi si creano anche tutti quei problemi di volgarmente detti di tallonite o di fascite plantare di cui abbiamo parlato in altre occasioni. Senta, lei ha già accennato al calcetto. Le scarpe da calcetto non sono tutte uguali, ahimè bisogna comprare quelle ad hoc, quindi una spesa in più se il ragazzino vuole giocare, d'altra parte meglio che si muova, quindi investiamo nella scarpa da calcetto, che quali caratteristiche deve avere a seconda? Beh, a seconda di dove gioca a calcetto. Se gioca a calcetto, come ormai tutti i campi da calcetto sono in terreno sintetico, la scarpa deve avere dei chiodi adatti al terreno sintetico. Se invece si gioca sul terreno erboso, deve avere dei chiodi più profondi, con una presa maggiore sul terreno erboso, quindi un chiodo più largo, mentre per il calcetto sul sintetico il chiodo deve essere molto piccolo, tipo dei piccoli gommini. Senta, dottor Memeo, ed è importante scegliere la scarpa giusta, perché sennò la salute del piede e di tutto il resto del nostro apparato muscolo-scheletrico ne risente. Sì, tante volte sembra di buttare via i soldi o che costino troppo, perché poi purtroppo la qualità si paga, ma è importante sia nel bambino che nell'adolescente che la scarpa sia fatta proprio ad hoc, a misura di sport. Deve anche far traspirare il piede, non dobbiamo dimenticare quello. Sì, perché se il piede soprattutto traspira... in adolescenza. Esatto. Deve traspirare il piede, perché se il piede non traspira, macchierà all'interno della scarpa e poi si creano tutte quelle complicanze tipo il piede d'atleta o complicanze dermatologiche a carico della pianta del piede o dello spazio interdigitale. Senta, pallavolo, basket? Pallavolo, basket, fondamentalmente la scarpa non è molto differente tra la pallavolo e il basket, perché comunque vengono giocate entrambi sullo stesso tipo di terreno, deve essere una scarpa che consenta un'agile elevazione sulla punta del piede per tutti e due gli sport. Non sono ragazzo, ci scrive Marco, ma corro ormai da prima dell'estate. Non rientra quindi nella categoria dei ragazzi, ci scrive che ha 49 anni. Proviamo a raccomandare qualche indicazione a chi corre. Anche lì dipende da dove corre e da quanto corre. Se corre sulla pista di atletica, il tipo di scarpa sarà di un tipo. Se si corre sull'asfalto, di un altro tipo. E se si corre sull'erba, ancora di un altro tipo. Devo dire che ormai soprattutto i maratoneti hanno sviluppato delle calzature super su misura, diciamo, a seconda del tipo addirittura di piede e del tipo di terreno su quale si va a correre. Perché nella corsa non bisogna sbagliare scarpa. No, assolutamente no, perché poi si possono addirittura nella corsa, nei maratoneti, si possono provocare quelle cosiddette fratture, cosiddette da stress, in cui l'osso si rompe non per un trauma, ma per una serie di microtraumatismi ripetuti. Ok, dottor Memeo, io spero di aver risposto alle tante mail dei nostri ascoltatori che chiedevano informazioni. Direi che nei negozi di articoli sportivi comunque troviamo sempre personale che in qualche modo ci dà una mano nella scelta. Assolutamente sì, e poi anche i prezzi credo che non siano mai esagerati, sono abbastanza contenuti. Ok, dottor Memeo, la saluto. Buona giornata, grazie ancora. Grazie a lei, buona giornata. Arrivederci. Pronto soccorso. Riprendiamo a parlare di insonnia, in linea due esperti per rispondere a tutte le vostre domande, insonnia negli adulti ma anche nei bambini. Abbiamo in linea infatti il professor Oliviero Bruni, che si occuperà della fase dell'insonnia nell'età evolutiva. Professor Bruni, posso dire così? Esattamente, sì. E il dottor Nobili, per chi è diventato grande e continua ad avere problemi di sonno. Antonella ci chiama dalla Spezia. Buongiorno Antonella, benvenuta. Buongiorno, grazie. Come dorme Antonella? Allora, io dormo male, almeno mi pare di dormire male. Io premetto che ho sempre dormito bene fin da bambina e tanto. Sì. Negli ultimi anni invece riesco ad avere un sonno disturbato, comunque mi sveglio e mi sento stanca. E per cui io volevo sapere se ci sono dei rimedi, se è un problema comune, forse per l'età. E... Antonella, quanti anni ha, scusi? Allora, 46. 46. 46. E poi vorrei porre una seconda domanda. Bene. Ho un figlio che ha circa 14 anni e lui quando va a letto, ma già da qualche anno, insomma sarà anche da 4-5 anni, ha difficoltà ad addormentarsi subito. Sì. In più ogni tanto, ma ogni tanto intendo 4 volte, 5 volte in un anno, capita che lui in questa fase di addormentamento poi comincia ad avere dei problemi dove dice che sente rumori accentuati, rumori forti, che in realtà sono inesistenti. È come se sognasse. Neanche un po'. Ma neanche, però è ancora sveglio. È ancora sveglio, lui sente rumori forti. Allora, io sono tranquilla perché il professor Bruno, io ho preso appunti e sicuramente ha ben chiaro quello che ce l'hai raccontato e ci risponderà tra poco. Ma io darei la precedenza ad Antonella, quindi andrei dal dottor Nobili. Dottore Antonella, ha sempre dormito bene, negli ultimi anni il suo sonno è cambiato. Questo rispecchia un po' quella che è anche la distribuzione dell'insonnia nella popolazione adulta. Purtroppo questa è più frequente nelle persone di sesso femminile quando superano una certa età, dopo i 40 anni, verso i 50 anni. I motivi sono principalmente legati alle variazioni ormonali che si possono avere in questa fascia di età. Ecco, le faccio la domanda difficile, che però è un po' il motivo per cui ne parliamo oggi. Che cosa si fa? Perché continuiamo a parlare di insonnia, ma 12 milioni di italiani o non hanno avuto le informazioni giuste, o non le seguono, o c'è qualcosa che non abbiamo detto, dottor Nobili, questo o non siete capaci a farci dormire, perché sennò... Allora, dottor Nobili, guardi, per Antonella, ad esempio, lei che cosa farebbe? Ma innanzitutto bisognerebbe capire, fare appunto alcune domande ancora rispetto a quelle... Ecco, ma io penso che le domande per Antonella valgono per noi. Antonella, è pronta? Allora, pronta a rispondere al dottor Nobili, si presti. Antonella, lei e tutti noi, forza. Dottor Nobili, parta. Dunque, Antonella si sveglia al mattino che non è riposata, pur dormendo, dice, la stessa quantità di ore. La mia domanda è, durante il giorno come si sente? Se una volta superata quella fase iniziale, un po' di intorpidimento, poi dopo riesce a svolgere le sue funzioni regolarmente durante il giorno. Antonella? Sì, quello senz'altro, riesco a svolgere le mie funzioni regolarmente, però con un senso di fatica. Sì, di fatica, di stanchezza. La passa la palla passa a Nobili. Quindi quello che mi viene da pensare è che ci sia un'alterata qualità del sonno, quindi qualche cosa che succede all'interno del sonno per cui non viene percepito come risveglio, ma probabilmente ci sono tanti quelli che noi chiamiamo micro risvegli del sonno. Qui le cause poi possono essere molteplici. Ha mai avuto quella cosa di cui abbiamo accennato prima, fastidi alle gambe, sensazione alla sera prima di addormentarsi e non sapere dove tenerle, oppure risvegli con delle scosse alle gambe, per esempio? Sì, sensazione di noia alle gambe, sì, sicuramente. Spesso. Di noia cosa intende? Che non riesce a tenerle ferme, che le danno fastidio? Sì. Beh, allora questo è un disturbo molto frequente, specialmente nel sesso femminile. Come diceva il dottor Bruni, nei bambini questo è un disturbo molto legato alla carenza di ferro, negli adulti un po' meno, ma esiste una percentuale di pazienti che anche da adulti hanno questo disturbo dovuto a una carenza di ferro, quindi andrebbe indagato anche questo, e se necessario forse... Nel momento in cui però si esclude ad esempio questo disturbo, potrebbe anche essere utile fare un tentativo, un periodo molto limitato nel tempo, di terapia farmacologica per vedere se si riesce in qualche modo a ristabilire una qualità del sonno buona. Molti però, dottor Nobili, hanno paura. Se inizio a dormire con la pastiglietta, poi alla fine ne divento schiavo. Questo non è corretto. In realtà, purtroppo, proprio anche per rifarsi a quello che diceva prima, tanti parlano di disturbo del sonno, poi in realtà si scopre anche da studi fatti in Italia, Italia, dalla Sezione Italiana di Medicina del Sonno, che solo pochi si rivolgono al medico cercando di risolvere questo problema, fanno un po' da soli e così via. Quindi l'indicazione che possiamo dare ad Antonella, ma poi il professor Bruni dopo i mercati e il meteo risponderà sicuramente, analizzerà il caso del figlio di Antonella, 14 anni, ha difficoltà ad addormentarsi e poi ha quella sensazione di avvertire dei suoni che Antonella dice in realtà non esistono, che cosa potrebbe essere. Dottor Nobili, quindi ai nostri ascoltatori, dall'esempio di Antonella, state attenti, verificate se c'è qualche cosa di esterno che vi disturba, una causa esterna, il formicoli alle gambe? Sì, esterna, esatto, sempre legata ad esempio al proprio corpo. E poi assolutamente non aver paura di iniziare una terapia, cioè sempre bisogna cercare prima di mettere in atto le regole di igiene del sonno, tutte queste cose, certo, prima di iniziare una terapia farmacologica, ma una terapia farmacologica può essere estremamente utile purché si abbia poi il compito proprio di come la si inizia, anche quando la si deve terminare e in che modalità bisogna terminare. Siamo tornati insieme, parliamo del nostro sonno e di quello dei nostri bambini. Intanto, prima di dare la parola al professor Bruni, ci scrive un ascoltatore, Gabriele, per rispondere ad Antonella in merito al figlio, e ci scrive: da piccolo avevo gli stessi sintomi, andavo dalla mamma in piena notte, ma con il tempo è passato da solo. E quindi questo è Gabriele che ci scrive per rassicurare la nostra amica. Ma intanto io e lo ringrazio perché mi piace questo scambio tra di noi. Allora, professor Bruni, ha ragione Gabriele a dire che è un problema che passerà da solo? Assolutamente sì. Questi problemi sono parte, diciamo, della fase di addormentamento, in cui si chiamano allucinazioni ipnagogiche, dove c'è i nostri sistemi sensoriali non sono completamente addormentati, per cui abbiamo delle dispercezioni, sì, come per esempio quando chiudiamo gli occhi vediamo tutte delle luci, dei flash luminosi. Quindi sono delle variazioni parafisiologiche, nel senso possono averli tutte le persone, così come abbiamo tutti quelle famose mioclonie dell'addormentamento, quando ci stiamo per addormentare che abbiamo la sensazione per esempio di cadere dal letto. E tra l'altro in adolescenza questo stato di dispercezione aumenta, proprio perché gli adolescenti sono maggiormente predisposti a questo. La difficoltà invece di addormentamento, a mio parere, potrebbe anche essere legata anche nel ragazzo a sintomi simili a quelli della mamma. Perché la sindrome delle gambe senza riposo, di cui stiamo parlando appunto, ha una grossa componente di tipo ereditario. Quindi potrebbe anche essere che la difficoltà di addormentamento sia legata a questi problemi anche di, per esempio, delle gambe come alla mamma. Che cosa farebbe però, lei, professore? L'altra cosa sì, è questa: volevo sapere se questo ragazzo in realtà dorme a sufficienza, perché anche queste, diciamo, dispercezioni potrebbero essere anche legate a momenti di come diceva lei prima, di sogni, sì, ad occhi aperti, per esempio, e si possono verificare se un soggetto è particolarmente deprivato di sonno. Quindi nella fase di addormentamento ci sono delle intrusioni di sonno REM, che è quello in cui si sogna, per cui abbiamo anche delle dispercezioni di questo tipo, quindi va valutato un po' tutto il complesso, certo. Ma professor Bruni, quando noi abbiamo un ragazzino che al mattino è stanco, deve andare a scuola, deve affrontare quindi tutti gli impegni dello studio, ma anche dell'attività sportiva di cui parlavamo prima, che cosa gli facciamo? È piccolo, ricorrere ai farmaci? No, non ci piace, almeno come mamme. Ecco, io vorrei che lei desse delle indicazioni, perché dai messaggi devo dire che il sonno è davvero un problema per bambini e anche molto per gli adolescenti. Sì, esattamente. Ma se parliamo di adolescenti, il problema è che loro hanno un maggior bisogno di sonno, mentre invece tendono a dormire sempre di meno. Quindi la cosa fondamentale è cercare di regolarizzare gli orari di addormentamento e di risveglio di questi ragazzi, fargli ottenere almeno 8-9 ore di sonno durante la notte. È assolutamente necessario per un miglior rendimento durante il giorno. Quindi al ragazzo si dice alle 10 si spegne, computer, televisione, eccetera. La risposta è... Si spegne il cellulare, perché adesso la tendenza e ci sono degli studi anche scientifici al riguardo, che è quella di fare mandare i messaggini durante la notte, per cui magari uno sta dormendo, l'altro amico che si sveglia gli manda il messaggino, quello si risveglia, risponde al messaggino e quindi e via, interrompe così il sonno, e di conseguenza spegnere i cellulari durante la notte è assolutamente un altro diktat che i genitori devono attuare. Almeno mandarli a letto, loro diranno non abbiamo sonno, ma bisogna insistere perché sonno chiama sonno, così dicevano le nonne, è vero o no, professore? Assolutamente sì, assolutamente sì. La regolarizzazione dei ritmi è un discorso molto più generale di tutti i ritmi del giorno, cioè dormire di più significa essere più svegli e più vigili durante il giorno, significa che poi quando arriviamo alla sera abbiamo più bisogno di sonno, specialmente in relazione per esempio all'attività sportiva, noi per recuperare dobbiamo dormire un pochino di più o comunque modifichiamo il nostro sonno per le esigenze di rigenerazione del corpo, dei muscoli. Andiamo a Martina che ci chiama da Torino. Martina, buongiorno. Salve, sì, sono di Vicenza. Di Vicenza, allora, l'hanno spostata a Torino, l'hanno avvicinata a noi, ma non importa, l'importante è che siamo insieme. 824 0024 se volete intervenire anche voi. Martina, ci racconti. Sì, allora io ho un bambino di 13 mesi e sono 13 mesi che noi non dormiamo. Sì. Cioè ha delle fasi, magari per alcuni mesi ha fatto, dopo naturalmente i primi mesi, sì, ha fatto una sola sveglia per notte, poi ne ha avute altri mesi dalle 7 alle 11 sveglie per notte. Adesso siamo a una sveglia per notte, però sì, dopo le 2, quando sì, si sveglia e poi lo rimetto a letto, ha una fase di sonnambulismo, cioè comincia a vagare per il letto, sì, e sul lettino naturalmente rimane incastrato, perché certo, anche se ci sono le protezioni si incastra con le mani oppure con le braccia o le gambe, insomma sulle sbarrette, e quindi si sveglia piangendo, oppure allora a quel punto lo spostiamo nel nostro letto perché almeno c'è più sì, spazio, perché uno dice almeno pur di dormire lo esatto, metto ovunque, sì, esatto, sono passata, lui continua a dormire e lei no, e noi no, certo, lui continua a dormire, sbatte su magari scusi Martina, mi ricorda quanti mesi ha il suo bambino? 10 mesi, Achille a 13 mesi, 13 e poi mesi. La cosa pazzesca è che di giorno non dorme, mio figlio dorme al massimo un'ora ed è un bambino sereno, felice, non ha nessun senta, problema. Quanto è dimagrita Martina in questi mesi? Tanti chili. Sì. Mi ha fatto anche bene, ho fatto però. Allora, sì, noi allora, professor Bruni, capisco che il caso è complesso, ma con i tempi radiofonici, indicazioni a flash, magari anche per correggere un'igiene del sonno e delle abitudini che gioco forza magari col primo figlio tutti noi prendiamo, io ho fatto bene o male la stessa vita di Martina e poi col secondo ho imparato, ma allora che cosa bisogna fare? Non è mai troppo tardi? Quindi no, io volevo chiedere solo se questo bambino si muove molto la notte, si agita molto. Da quando lo mettiamo a letto, cioè le 8:30, perché poi la sera arriva che è veramente stanco, sì, lo mettiamo a letto presto, fino alle 2 rimane fermo, come rimane fermo, svenuto, con le braccia e le gambe allargate e basta. E invece poi, dopo che ha questo risveglio, che è tra l'una e le 3, diciamo, allora lì comincia a muoversi, si muove tantissimo, da sonnambulo in pratica, mentre prima non lo faceva. Professor Bruni, cosa allora vuol dire? In questo caso il bambino è tornato al sonno, diciamo, bifasico, cioè una prima fase di sonno ed una seconda fase di sonno, con una fase intermedia di, diciamo, pseudoveglia, sì, in cui si possono fare tutti questi movimenti, questi automatismi che la signora indica come sonnambulismo. Il problema è questo, bisognerebbe cercare di regolarizzare di più il sonno, cioè tentare di mandarlo, di farlo addormentare più tardi e cercare di farlo dormire durante il giorno. In questo modo noi, da un sonno bifasico come è quello, se posticipiamo l'orario di addormentamento, verosimilmente cerchiamo di comprimere il sonno e tornare ad un sonno monofasico, cioè quello. Quindi se gli facciamo fare un pisolino sì, a metà nel pomeriggio, dopo pranzo, per dire, questo tira invece che alle 8:30, lo mettiamo a letto verso le 9:15. Che dice, sì, il professor Bruni? Esattamente. 9:15, 9:30 a letto. Oppure si può fare gradualmente che ogni giorno ritarda di 10 minuti l'orario di addormentamento. Martina, è molto più semplice. Che dice? Vuole provare, che poi ci racconta? Proviamo. Intanto io chiedo anche per Martina al dottor Nobili. Dottor Nobili, Martina dormirebbe volentieri, ma con questo pupo che la sveglia tutte le notti diventa difficile. In questi casi, non mi dica, cerchi di dormire un po' di giorno quando il bambino lo tengono i nonni, perché sa che poi non si riesce. Ecco, che cosa può fare Martina? Aspettare che cresca? Guardi, penso che in questo momento, quando la causa è una causa esterna oggettivabile come quella del bimbo che si sveglia, anzi è necessario che la mamma sia pronta a svegliarsi nel caso ci fosse bisogno di aiutare il bimbo che va in giro per la stanza, ecco, direi. Quindi in questo momento penso che sia meglio che il dottor Bruni dia una mano per il bambino. Prima toglierei la causa scatenante del disturbo del sonno e poi dopo vediamo se questa persiste o no, ma in questo momento forse è meglio non fare nulla, ecco. Allora, noi abbiamo aperto la nostra trasmissione, però lo confermiamo anche noi per esperienza personale, che il sonno incide sull'umore, ci rende tristi, nervosi, irascibili, pessimisti. In linea però io ho una donna che sembra essere un'eccezione alla regola. Sarà perché porta dentro il calore e la simpatia della sua terra d'origine, la Sicilia. Sarà perché è vissuta e cresciuta insieme a due fratelli maschi che di nome fanno Rosario e Beppe, tant'è che in linea con noi abbiamo una donna che dorme poco ma è sempre in pista, e ve la saluto, così ve la presento. Catena. Buongiorno. Catena Fiorella in linea con noi. Saranno hai avuto una buona scuola? No, è vero, però hai nominato i due fratelli dimenticandoti che c'ho pure una sorella che si chiama Anna e che mi dice sempre: senti, ditelo che esisto anch'io, sennò pensano che sono Ma io vorrei che Anna intervenisse la prossima Anna volta. In questo momento è nel suo negozio a Roma, tranquilla, che insomma magari sta anche ascoltando il programma. Allora, se Anna ascolta il programma le diciamo di intervenire, e così se ha problemi di sonno mettiamo a posto anche lei. Catena, come descriveresti le tue notti? E poi andiamo a sentire le strade e ti ripeschiamo. Sì, questa notte mi sono svegliata alle 3:20 per esempio, e a un certo punto ho detto: vabbè, che faccio, ho messo su un canale, vabbè, casualmente ho messo sul canale di Sky Alice, fanno sempre le ricette, sì, dove passa peraltro un programma in replica mio, L'Isola del Gusto, e poi a un certo punto ho visto sia il mio che un altro programma e ho occupato il tempo, che poi sono pensavo sei, che tu mi dicessi: mi sono alzata e mi sono fatto ho iniziato a preparare la parmigiana. No, quello no, perché ero ospite a casa di mia mamma stanotte, ieri sera, quindi sai, non si può mettersi a friggere le melanzane, no, fare brutto. Poi ho cominciato a fare il caffè, quindi io non credo a una cosa, guarda, sinceramente, non credo al sonno indotto, vale a dire, io in questi anni ho chiesto anche ai medici, sì, eccetera, eccetera, un po' come le fobie, un po' come le altre patologie che hanno, secondo me, un 50% di motivazioni psicologiche, un 50% fisiologiche. Uno deve imparare anche a convivere con i limiti del proprio corpo e della propria mente. Senti, Catena, allora tu lanci questa proposta. Dottor Nobili, Catena Fiorella l'ha tirata in ballo, è vero che ci si deve anche un po' abituare? Ma io penso che questo sia un modo di ragionare, però è molto saggio. Prima di tutto non bisogna dire: ma quante... Molte persone si preoccupano che io dormo solo 5 ore, 6 ore per notte, ed esce fuori che poi non hanno alcun problema di giorno. Esistono i cosiddetti corti dormitori, esistono delle persone che in fondo sono anche fortunate, possono con poche ore di sonno stare bene durante il giorno. Il problema è capire se veramente sono dei corti dormitori o se hanno delle implicazioni negative sulla qualità della vita. Ma esistono delle persone che con anche una quantità di ore ridotta possono stare bene. Queste sono persone che non devono preoccuparsi più di tanto da un punto di vista di terapie farmacologiche e cose, ma semmai come passare il tempo, perché questo poi spesso succede anche negli anziani, no? Negli anziani dormono magari un po' anche durante il giorno e poi si ritrovano a star svegli di notte e riferiscono al medico di essere insonni, ma non sono insonni, hanno dormito già un po' di giorno, di notte dormono poco, non sanno cosa fare in quelle ore dalle 5, dalle 4 del mattino in poi quando si svegliano. In effetti per molti può essere un problema, ma se uno sa che invece il ritmo proprio è quel tipo, adotta delle altre strategie. Questo caso è un'ottima strategia. Sì. La televisione può, chiaramente in quel momento lì penso che abbia deciso che il suo sonno notturno è finito, è iniziata la sua giornata. Ecco, tu ti alzi sempre, Catena, quando perché questo lo consigliano anche i medici, non state lì a rigirarvi nel letto come delle sogliolone, alzatevi e fate altro. Sì, guarda, io non conosco il dottor Nobili, no? Però è una delle pochissime figure professionali nell'ambito della medicina che ha risposto in una maniera... A mio avviso, io non sono un medico, però ritengo di essere intanto una persona e un paziente, quindi ho voce in capitolo quando vado a fare una visita. Poche volte incontro il medico che comunque in maniera così anche, voglio dire, umana, ti risponde capendo in toto una personalità, perché la maggior parte dei medici l'obiettivo è riempirti di sonniferi e fare di te un emerito deficiente che deve dormire per forza 10 ore per notte. E il dottor Nobili, insomma, il dottor Nobili, Catena, lo promuoviamo. Bravo, dottor Nobili. Ma viene dalla mia esperienza, io sono un corto dormitore, lavoro di notte, faccio queste cose, non mi sono mai preoccupato di quante ore dormo, perché per fortuna di giorno sto bene, quindi perché dover per forza dormire le ore che dormono tutti, ecco. Certo. Professor Bruni, lei come dorme? Che insegna le mamme a far dormire i loro bambini? Io dormo bene, io dormo, non sono un breve dormitore, dormo le mie 7-8 ore di sonno per notte, insomma, anzi ultimamente anche 6, ma insomma dormo bene, non ho problemi ad addormentarmi, non ho... Allora, io volevo approfittare di voi tre, di Catena che con l'Isola del Gusto, tra l'altro, insomma, lei è anche una cuoca raffinata. Raffinata, diciamolo. No. E vorrei approfittare del dottor Nobili e del professor Bruni, perché molti ascoltatori ci dicono, ma quanto conta l'alimentazione, il tipo di dieta nei problemi di sonno? Per me tanto, Ecco, non certo che nessuno fa... il pasto pesantissimo e poi si butta subito a letto e non si dorme mai, ma insomma ci sono degli alimenti, una dieta salvasonno? Posso dire la mia? Certo, devi. Una cosa, guarda, una cosa stranissima, però poi ho appurato perché ho fatto delle prove, se io mangio la carne, una bistecca la sera, ho finito di dormire, cioè proprio non dormo più, e non è un caso perché ho fatto prove più volte e in effetti non dormo, solo con la carne rossa. La carne rossa non fa dormire Catena, dottor Nobili, ci sono anche degli altri alimenti o è una cosa personale? No, quello che ha detto in effetti... Adesso lei non le dia sempre ragione perché le ha fatte complimenti. Ci sono delle persone che possono mangiare e dormire quello che vuole e non hanno alcun problema. Altri che sono molto sensibili all'alimentazione, ad esempio gli alimenti che contengono un'alta quantità di proteine, come ad esempio la carne rossa, possono in qualche modo disturbare il sonno, questo è detto, sono delle sostanze che contengono dei cibi che contengono sostanze attivanti, che quindi in questo modo sono degli stimolanti a livello centrale, che è meglio evitare. Il cioccolato, il formaggio, certi prosciutti, il bacon, ci sono delle cose che insomma state leggeri. Ma io prima di salutare i miei ospiti voglio salutare il professor Carlo Foresta, che è ordinario di patologia clinica all'Università di Padova. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, in chiusura io approfitto di lei per dare i risultati di una ricerca che ha indagato, fatta dall'Università di Padova, che ha indagato le conseguenze dell'utilizzo di stupefacenti sull'attività sessuale maschile. Certo. Che cosa le è venuto fuori, professore? I risultati intanto derivano da un questionario che abbiamo somministrato a 2100 diciottenni. Sì. E da questo questionario abbiamo fatto emergere come sono veramente molti gli studenti che fanno uso di sostanze stupefacenti. Il 50% per esempio ha dichiarato di aver provato la marijuana, ma poi in percentuali più basse ma sempre significative, popper, ecstasy, eccetera. Sono le sostanze che maggiormente si utilizzano poi nei weekend. Professore, questo che cosa comporta? Così prima di salutare abbiamo 30 secondi per dire i risultati. L'allarme che voi lanciate qual è? Certo, che la somministrazione di sostanze stupefacenti stati, aumenta di 3 volte il rischio di avere disfunzioni sessuali in questi giovani, e alcune sostanze in particolare, come il popper e l'ecstasy, addirittura di 60 volte più elevato il rischio che questi ragazzi abbiano delle disfunzioni. E poi, se noi teniamo conto che queste disfunzioni si associano in momenti in cui sono più facili, diciamo, all'approccio nelle discoteche il sabato, allora diventa importante che questo sintomo scateni delle manifestazioni anche psicologiche che portano all'assunzione di altri farmaci come il Viagra, certo, il Cialis e quant'altro. Per compensare. Professore, noi dedicheremo a questo tema sicuramente una puntata intera. Intanto ringrazio lei. Ringrazio Catena Fiorello, che è stata con noi e ha condiviso con noi i suoi problemi di insonnia, suggerendoci anche un modo per prendere le notti bianche. Grazie a Catena Fiorello. Grazie, grazie a voi e buon sonno a tutti allora. Grazie al professor Bruni, al dottor Nobili, grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato. Appuntamento come sempre a domani. Buona giornata, buon sonno, buon riposino da Nicoletta Carbone.